A Rock FM sono le 7:30 minuti. Spaccati! Buona giornata amici, buona giornata amiche. Dagli studi di Via Locatelli 1, 20-124 Milano, il lampione crepuscolare ci ha abbandonato e allora... attendiamo che il sole splenda. Giornata, tarudaru. Anche a Marco, contento dell'inizio di quest'oggi con Marchi, Joy, Johnny e Didi, Gabba Gabba e a tutti voi da Pane, Burro, Rock and Roll. Cioè, guarda, ma guarda che messaggi da disperati che ricevo. Spero ci saranno le ambulanze sabato sera fuori dall'Alcatraz. Sai com'è? Coma etilico assicurato. Madonna, ma smettiamola di dipingerci come degli alcolizzati, che poi non è vero. Noi motociclette inquinanti Neuro 4. Siamo rock, no? Ah, non fatemi dire certe cose, per favore, dai. Let the sunshine. Che splenda anche per Sara e anche Marco da Milano, che chiede se daranno le patenti all'Alcatraz. Certo, però ragazzi, a inizio serata, sia chiaro, noi di Pane, Burro e Rock and Roll apriamo sempre tutto, apriamo la mattina e anche le feste di Rock FM, quindi venite per le 10:30. Mi sono stampato una mail perché c'è Martina che quest'oggi compie gli anni. Auguri! Let the sunshine! Io non so se ce la faccio arrivare alla fine oggi. Ci provo, Poi ho anche la serata stasera a Colle Salvetti, allo Charlotte. Devi vedere, Spadino, con che occhi mi presento ogni venerdì. L'ultimo saluto a questo povero amico. Oggi sveglia alle 4. Prima cosa che faccio, mi chiudo la mano nella porta del bagno distruggendo l'anello di fidanzamento. C'è una certa Valentina che da questa mattina mi odia. Cioè, che da questa mattina è la persona che più mi odia al mondo. Dai, su. Che acida questa Valentina, però. E ti sei pure fatto male al dito. There once was a woman, a strange kind of woman, the kind that gets written down in history. Her name was Nancy, her face was nothing fancy. I got it. DJ Ariele distratto, io di soppiatto mi impossesso del microfono e vi anticipo, amici che ci ascoltate, cari radioascoltatori e radioascoltatrici, la rubrica della rinascita, del rilancio della cartolina postale. Via Locatelli 1, 20 124 Milano, centinaia le cartoline che sono arrivate oggi. Ma che andiamo... dico centinaia, ma cosa diciamo centinaia? Decine. Qualche migliaia. Ormai le frego tutte le battute. Andiamo nel qua, reparto. Cosa mi frega adesso? Io lo so che mi fregava queste reparto... cartoline. Reparto porno, semiporno. Sex, sapete, sexy. Nella volontà di leggervele tutte, le abbiamo catalogate. Siamo al reparto. Sì, softcore, molto giusto. Me la descriva, prego, dal Gargano. Dal Gargano, saluti abbiamo dal Gargano. Saluti dal Gargano, abbiamo una bellissima cornice colorata con un sole sulla destra, mentre il centro è occupato da un mare calmo. I soggetti. Calma piatta sul mare e tre bellissime ragazze, veramente notevoli. Prese da Tergo, da dietro. Le ragazze, attenzione, posseggono un reggiseno, ma almeno due di loro, forse la terza no, ma posseggono anche un tanga. Il problema, esatto, è lì, perché il tanga non è su. Se lo abbassano sulle natiche. Per rendere il tutto molto più kitsch di quanto già non lo fosse, segnaliamo anche una scritta love molto fricchettona, multicolore in CinemaScope a queste belle chiappe, bisogna confessarlo. Sì, le chiappe, soprattutto quelle della terza mandolino. Esatto, ma non vorremmo diventare prevedibili. I saluti sono brevissimi, cordiali saluti, Matteo, Rita, Dani. Grazie per questa tripletta di chiappe. Grazie. E a cosa passiamo? Un saluti da Lignano, Sabbia d'Oro, se non sbaglio. Anche questa è un filo vintage di cartolina. Sì, me la descriva, via. Beh, sì, è sempre sul genere softcore o comunque sexy, dove c'è una signorina, forse di Lignano, chi lo sa, autoctona, forse indigena. Molto 70s, sì, che ha un paio di mutandine 70s. Sì, sicuramente. E un topless. E per coprire la parte superiore un'abbondanza di collanine che coprono. Che non serve un granché. In più ci aggiungiamo una bella veduta dei grattacieli di Lignano, una sfilza di signorine sdraiate a prendere il sole e le farei notare anche le sedie di plastica di qualche presunto hotel lì. Con le tovaglie viola. Ciao leggende, recita il messaggio. Vi mando questa bella leggenda dell'Eros sperando sia di vostro gradimento. Peccato che la pulzella oramai avrà 75 anni, finché respira può sempre andar bene. Questo è il messaggio, certo, di Marco, Monica, Eleonora e Beatrice. Grazie anche a tutti voi. Andiamo con l'ultima di quest'oggi, un frutto tipico. Questo recita la prima di copertina di questa copertina. Ci sono delle banane, ma non solo. Prego, maestro. Sì, tra le banane spunta. Lo riconosce ancora? Io direi quello che assomiglia ad un capezzolo. Lo è, con annessa tetta. Bella, tra l'altro. Sembra ben fatta. C'è anche un titolo, Typical Fruit. Esatto, frutto tipico. Frutto tipico, sì, insomma. Le banane coprono quasi per intero il capezzolo, ma il seno. In primo piano assomigliano anche a serpenti. Potrebbero assomigliare a serpenti. Che il serpente ha sempre un che di simbolo fallico. Chi dobbiamo ringraziare? Me lo lasci dire, fallico. Lo dica. Ringraziamo Roby e Ale per questa meravigliosa cartolina. Saluti a tutti i cialtroni di Rock FM e un messaggio post-scriptum. Le banane sono per Claudia. Grazie comunque. Grazie per non aver pensato a noi. Per le banane gliele gireremo a Claudia. Grazie a voi per aver spedito le cartoline. Tu ne hai scritta una? Vedrai, prima o poi ti salutiamo. Certo, arriverà anche il tuo turno, abbi pazienza. Pane, burro e rock and roll si occuperà anche della tua cartolina. E beh, che c'è? Another tequila sunrise. time said goodbye. He was just a hired man working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running down. She wasn't just another one, and I couldn't keep. Take another shot. Eagles e le loro chitarrine per questa Tequila Sunrise. 7:47 minuti primi. Devo fare una confessione ai radioascoltatori. So che là fuori vi aspettate tanto da noi, ma siamo coscienti del fatto di non poter fare tutto da soli. Insomma, dovete completarci nella costruzione di pane, burro e rock and roll. Stavamo pensando che per quanto riguarda l'ambito sportivo di questa trasmissione radiofonica siamo messi parecchio male. Direi che l'unico intervento di sportività che facciamo è quello di salutare l'omino che fa jogging quando passa davanti alla nostra finestra. E allora pensavamo, perché non dar voce a qualcuno di voi che invece sportivo lo è davvero? A proposito di gente che corre, buona giornata Filippo! Ciao ragazzi, ciao Ariel, ciao! Benvenuto a Pane, Burro e Rock and Roll! Grazie mille, grazie a te! Filippo ci ha chiamato perché c'è una bella manifestazione sportiva che si terrà questa domenica a Milano e insomma in rappresentanza di Pane, Burro e Rock and Roll Filippo ci rappresenta. Dunque, è un onore per me, grazie mille! Raccontiamo la storia come sta. Iniziamo a spiegare cosa c'è domenica, vai! Allora, domenica a Milano c'è la Terry Fox Run, che è una gara non competitiva di 5 km sì, per la raccolta fondi per la ricerca sul cancro. Ricordiamo subito chi è Terry Fox, l'uomo al quale è dedicata questa corsa. Infatti Terry Fox è un ragazzo canadese che tanti anni fa ebbe purtroppo un sarcoma osseo, gli amputarono una gamba, con la protesi decise di girare tutto il Canada con lo scopo appunto di raccogliere fondi per la ricerca. Ovviamente il suo scopo fu raggiunto, perché lui corse tipo 5.000 km in 140 giorni, purtroppo poi il tumore si allargò e lui ci lasciò. Però insomma diciamo che la fondazione Terry Fox dal 1980 è nata e in ogni paese del mondo si corre questa maratona, i cui fondi vanno al progetto pediatrico dell'Associazione Italiana Ricerca Cancro, quindi un progetto serissimo, certo. E sarebbe bello avervi tutti insomma dopo la fetta all'arca. Se vi presentate lì fate bene a voi stessi perché correte e anche alla ricerca, mi sembra. Quindi domenica 7 alle 11 della mattina ai Giardini di Palestro. Allora succede questo: Filippo via SMS ci contatta e ci invita a correre, esatto, a presentarvi, esatto, come ha fatto adesso con tutti voi radioascoltatori. Noi essendo dei veri rocker Abbiamo deciso, caro Filippo, che tu ci rappresenterai. Va cioè, benissimo. È come se io fossi lì, capito? Va bene. Non so in quali condizioni, perché all'Alcatraz vengo anch'io sabato, eh? Quindi va benissimo. È stato un piacere ricordare grazie. Questa ti bella... Dice, ti dice ciao la mia bambina Vittoria. Salutiamo. No, passamela subito. Quanti anni ha? Vittoria? 4. Ciao, Vittoria. Tutto bene? Sì. Dove stai andando di bello? All'asilo. All'asilo. E ti piace andare all'asilo o preferiresti ascoltare la radio? Ascoltare la radio. Ciao carissimo, un bacio. Ciao. Filippo, ciao. Grazie. Ciao, grazie oh, Filippo, questa è stata la radioascoltatrice più giovane che io abbia mai messo in onda. Le hai fatto anche gli auguri settimana scorsa. Grazie mille. Fantastico. Buona giornata a te, ciao, a Valentina. E viva la Terry Fox Run. Questa domenica 11:30 a Palestro. Ciao, caro. Ciao, grazie a voi. He was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. Had a mama believe that every man could be free, so her mama go high, high, high. And her daddy marched on Birmingham, singing mighty protest songs. Baby, run, baby, run. adesso permettetemi di complimentarmi con il mio regista, che a volte ha delle idee geniali, e di sottolineare l'intervento dedicato alla Terry Fox Run, quindi a una corsa, con Run Baby Run di Sheryl Crow. Mannaggia Spadino, che colpo d'autore che ci hai fatto questa mattina! Ti meriti, Spadino, io sono in squadra con te perché ti merito, capisci? Il meccanismo è questo. Buona giornata dall'Ariele, 7 e 52 minuti primi. Vi avevamo promesso una grande puntata e continueremo a mantenere la promessa fino alle 9 del mattino. Un saluto a Fabio Treves, il nostro blues man di riferimento, che si complimentava con l'amico, insomma con la scelta politica di Pane, Burro e Rock and Roll di sponsorizzare certi eventi. Vi ricordo che il buon Fabione sta scaldando le valvole del suo amplificatore per bruciarvi le orecchie insieme alla Rock FM All Star Band domani sera all'Alcatraz di Milano. Sempre a proposito di Rock FM All Star Band, ricevo anche un messaggio da Mr. Pinguino, bassista della formazione, contento dell'intervento. Aspetta, no, lo leggo perché mi sembrava carino il messaggio. In realtà non commenta mai il mio bassista le mie trasmissioni, però non è riuscito a non commentare questo. Gran colpo, bimba preasilo in diretta, picco di ascolti e nuova fetta di ascoltatori. Che bello. Valentina, ciao, buona giornata ancora. Secondo me ci sta che apriamo una rubrica per i bambini che stanno andando all'asilo con i genitori rock. La famo? Sì, dai, mi sa che la facciamo. 335-100-7777, un po' di dolcezza nelle vostre orecchie e a seguire... Cosa vuoi fare, Free? Le parole ribelli? No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. It's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. Before I land and I back away. Ai, con quella lucina negli occhi, il maestro Roberto Friccantoni mi puzza di grande idea. Ma sì, DJ Ariele, ho come la sensazione di un'intuizione che mi entusiasma. Lei quando fa così vuole tornare a fare della gran cultura sulle frequenze di Rock FM, perché ricordatevelo, il rock è cultura. Naturalmente, a dispetto di quello che vi diranno certi elementi, certi teppisti, per esempio, sì. E abbiamo già visto il significato dell'espressione, dell'idioma teppista, il rock è davvero cultura. E allora apriamo la rubrica denominata Le parole ribelli, conduce Roberto Friccantoni. In che meandro ci incastriamo quest'oggi? Oggi andremo nel cesso. Ah, complimenti, ottimo a quest'ora della giornata, tra l'altro, che è la probabile cesso, sì. È la probabile contrazione, cioè l'abbreviazione, sì, di recesso, derivato da recedere, cioè ritirarsi. E per quello che cui... ritirarsi in bagno. Esatto, la ritirata si dice in treno, no? Da cui recessus, luogo appartato, lontano da occhi indiscreti. Pensi che invece nell'antica Roma si, sì, defecava in compagnia. E quindi non c'era un recesso. Non c'era assolutamente, infatti non un c'era recesso. Neanche il cesso. E infatti non c'era il gabinetto, benché ci siano tracce di gabinetti che allora erano pubblici anche in Mesopotamia. Anzi, il primo gabinetto è stato rilevato in Mesopotamia, costituito da pietre una vicina all'altra e una terza pietra che serviva per sollevare la persona. Resto assolutamente basito, è incredibile, avrei voluto saperlo e adesso lo so. Grazie. Prego, è un servizio di Pane, Burro e Rock and Roll.